Salvadanaio di Deborah Rosciani. Il 70% delle famiglie possiede un'abitazione di residenza, ma quelle che hanno contratto un mutuo non raggiungono il 15%. La forte crescita dei mutui registrata in questo decennio ha riguardato principalmente le famiglie che appartengono alle classi di reddito e di ricchezza medio-alte, meglio in grado di far fronte all'onere del debito. Ma per le famiglie indebitate la rata di rimborso assorbe una quota crescente delle entrate correnti. L'ampia diffusione dei mutui a tasso variabile negli ultimi anni ha comportato un aumento dell'incidenza della rata sul reddito disponibile, che alla metà di quest'anno superava il 20%. Le famiglie con redditi più bassi, l'1% del totale, sopportano oggi una rata stimabile in quasi il 40% del reddito disponibile. Tuttavia è necessario che le banche siano particolarmente attente nella gestione dei rapporti con le famiglie, soprattutto quelle finanziariamente più vulnerabili. La rinegoziazione di alcune condizioni contrattuali può alleggerire gli oneri presenti e distribuire nel tempo i rimborsi. Le misure introdotte con l'accordo tra il Governo e l'Associazione Bancaria Italiana rappresentano un utile quadro di riferimento, ma le difficoltà che i mutuatari incontrano nel valutare l'entità e la distribuzione degli oneri negli anni futuri dei nuovi contratti sembrano tuttavia scoraggiare il ricorso a queste procedure. È nell'interesse delle stesse banche adottare un approccio pragmatico e flessibile, valutando anche su base bilaterale le soluzioni più idonee a contenere il servizio del debito delle famiglie più vulnerabili e a salvaguardarne in questo modo la solvibilità. Occorre inoltre considerare che un'ampia quota dei mutui a tasso variabile è ancorata nel nostro Paese al tasso interbancario Euribor. Oggi, a causa delle tensioni sui mercati interbancari e della rarefazione degli scambi, l'Euribor non riflette più adeguatamente il costo della raccolta. In prospettiva, è opportuno che le banche utilizzino per l'indicizzazione dei mutui a tasso variabile parametri più strettamente collegati all'effettivo costo della raccolta. Era il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi. Buongiorno da Deborah Rosciani. All'84esima giornata mondiale del risparmio, che è stata celebrata a Roma venerdì scorso. Lo avete sentito, Draghi ha detto: è ora che le banche comincino a pensare di presentare un'offerta nell'ambito dei mutui agganciata a parametri differenti rispetto a quelli che si sono utilizzati fino ad ora. E questo naturalmente per rispondere anche alle esigenze delle famiglie in difficoltà. L'Euribor non va più bene, ma intanto, a parte questo, a parte il fatto che c'è anche una banca che già stamattina, lo abbiamo appreso, ha già pensato ad un mutuo agganciato non più al tasso interbancario Euribor, ma a quello di riferimento della Banca Centrale Europea, oggi peraltro, visto che la Banca Centrale Europea si riunisce e decide sui tassi, potrebbero arrivare buone notizie anche per chi comunque un mutuo agganciato all'Euribor ce l'ha ancora e magari in queste settimane non è riuscito a rinegoziarlo e quindi ad alleggerire il peso della rata. Insomma, anche alla luce di questa decisione che arriverà fra un'ora e mezza circa, i mutui ci daranno tregua. Qual è la situazione in questo momento? Noi torniamo a fare il punto su un tema a voi molto caro, ovviamente come sempre grazie alle vostre domande. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Buongiorno ad Anna Vizzeri, ufficio studi economico giuridici di Altro Consumo, ben arrivata. Grazie, buongiorno a voi. E buongiorno anche, benvenuta, Roberta Nedda, direttore marketing Mutui Online. Buongiorno. Ben ritrovato. Sono già pronti degli ascoltatori, ovviamente non hanno una certa ansia anche, no? Intorno a quello che sta accadendo, però insomma quella che dovrebbe arrivare oggi è una buona notizia. I tassi in questo momento, il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea è al 3,75%, l'Euribor è molto al di sopra di questa soglia, da qualche giorno sta scendendo. Noi adesso faremo il punto della situazione nella nostra scheda, ma abbiamo anche un nuovo minimo toccato questa mattina al 4,59%, a livello minimo a 10 marzo, anche se questo è l'Euribor a 3 mesi, e poi faremo anche delle precisazioni alle quali i nostri interlocutori tengono. Non è solamente questo il parametro di riferimento per i mutui a tasso variabile, abbiamo anche quello a 1 mese, che lo stesso si è mosso in maniera schizofrenica non poco negli ultimi tempi. Allora, prima di sentire gli ascoltatori, abbiamo la nostra scheda, vi racconto però anche quello che succede in borsa, perché anche questa la monitoriamo sempre con grande attenzione. La borsa oggi è piuttosto negativa in Europa. Abbiamo dei cali di circa, anzi di oltre il 4% a Parigi, Francoforte e Londra. L'Asia si è comportata ancora peggio, il Nikkei A Tokyo è chiuso con un ribasso del 6,53%, l'Hang Seng di Hong Kong è meno 7%, ieri sera nuovo calo pesantissimo per Wall Street, gli indici hanno avuto un ribasso di oltre il 5%, Milano si comporta un po' meglio, perde 3 punti percentuali. In attesa della Banca Centrale Europea, il mercato guarda a questo punto al dopo elezioni americane, al dopo Obama, anzi al dopo Bush e a Obama, che a questo punto dovrà mettere immediatamente in campo le proprie ricette per risollevare l'economia americana, che ovviamente quando va bene condiziona tutto il resto del mondo, quando va male la condiziona in maniera altrettanto forte, per cui insomma aspettiamo le ricette economiche per la ripresa statunitense, però siccome il 2009 sarà probabilmente all'insegna della recessione, il mercato guarda a questa prospettiva e oggi torna a scendere pesantemente. Una rapida occhiata ai migliori titoli a Piazza Affari: Terna meno 0,4, Italcementi meno 0,98, ribasso di circa un punto, Sosnam Rete Gas e Fastweb, per cui nessun titolo positivo. I cali più forti sono su Tenaris meno 6,36 in attesa della trimestrale, Autogrill meno 6, Bulgari meno 5, Saipem meno 4,94%. Oggi andiamo ai mutui. In vista della revisione dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea, ecco il punto della situazione. Mentre in Europa sale l'allarme recessione economica, è atteso un nuovo taglio dei tassi di interesse da parte della BCE. Nell'area euro, dove attualmente il costo del denaro è al 3,75%, l'allentamento monetario dovrebbe essere di circa mezzo punto, anche se c'è chi non esclude una riduzione dei tassi più aggressiva. Un'altra buona notizia proviene dall'Euribor. Quello a tre mesi ha raggiunto un nuovo minimo, toccando quota 4,66%, il livello più basso dal 18 marzo scorso. Per tante famiglie strozzate dalla rata, le speranze si sono dunque riaccese, anche se è ancora presto per tirare un sospiro di sollievo. Mutui Online ha confrontato le variazioni sulla rata in caso di calo ulteriore dell'Euribor. Se scendesse ancora di un punto, il peso delle rate tornerebbe ai livelli del 2006. Ma in questa situazione è ancora conveniente rinegoziare secondo la convenzione governo-ABI? Sicuramente lo è per chi si trova con l'acqua alla gola e non può permettersi di aspettare, scommettendo sulla discesa dei tassi. Altrimenti si può ricorrere alla rinegoziazione dello spread, alla surroga o alla sostituzione del mutuo. Prima di fare una scelta, però, è sempre bene chiedere alla banca tutte le informazioni utili per una decisione in piena consapevolezza, come il piano di ammortamento del mutuo e il tasso ISC, indicatore sintetico di costo. Per conoscere però il vero costo del prestito, il modo migliore è quello di richiedere all'istituto il modulo ESIS, il modulo personalizzato con l'indicazione del costo effettivo del mutuo e di tutte le relative condizioni. L'unico strumento che consente effettivamente di confrontare le offerte delle banche e scegliere quella più conveniente. 800240024, numero verde per i vostri interventi. Volevo ribadire una precisazione: appunto, nella nostra scheda abbiamo dato l'Euribor a tre mesi al 4,66%, ovviamente era l'Euribor di ieri, oggi è stato aggiornato un altro, lo avevo detto anche in apertura, al 4,59% ai minimi dal 10 marzo. Roberto Anedda, allora, precisiamo intanto una cosa, sgombriamo il campo da un po' di equivoci. Sì, la nostra fissazione è l'Euribor a tre mesi e noi lo indichiamo quasi sempre come il parametro di riferimento per quasi tutti i mutui a tasso variabile. In realtà ce l'ha una famiglia su tre? Mi diceva. Sì, una famiglia su tre, una banca su tre, diciamo un 30-40% al massimo delle banche usa al momento come parametro per il calcolo del tasso variabile il tre mesi, mentre un numero crescente di banche in questi anni ha utilizzato e continua ad utilizzare l'Euribor a un mese, che fortunatamente, soprattutto in questa situazione, è invece più basso, tant'è vero che la quotazione di oggi dell'Euribor a un mese è al 4,25, quindi il sollievo è ovviamente ancora maggiore. Per chi ha il mutuo agganciato a questo tipo di tasso. Poi ovviamente ancora, quando i tassi salgono o scendono, tutti gli Euribor si muovono bene o male allo stesso modo. Il tre mesi dà un'indicazione, proprio perché è un orizzonte temporale più lungo, di quello che il mercato si aspetta, soprattutto in situazioni di crisi come quella di adesso, non proprio nell'immediato, ma anche in un arco temporale di diversi mesi, e quindi può dare un'indicazione più di prospettiva. Però poi dal punto di vista pratico, cioè del costo del mutuo, bisogna non tenere conto di quale Euribor effettivamente si utilizzi, e fortunatamente, ripeto, nella gran parte dei casi si tratta di quello a un mese. Di quello a un mese. 800240024, il numero verde per le vostre domande. Allora, siccome la prima domanda che vorrei rivolgere ad Anna Vizzari riguarda proprio un aspetto che vorrebbe toccare un ascoltatore, vedo in anteprima nel mio display a Ettore da Varese, allora gli faccio fare direttamente la domanda, così andiamo subito nel merito della questione. Ettore, ben benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno, buongiorno dottoressa Rosciani, buongiorno ai suoi ospiti e a tutti. Buongiorno. Grazie, buongiorno a lei. Ma la mia è una condizione un po' particolare, a parte, vabbè, tonnellate e tonnellate di montagne di confusione. Le dico una cosa, allora io ho un mutuo un po' particolare aperto nel 2006, maggio 2006, è un tasso variabile protetto, quindi una variazione di rata annuale con un aumento o una discesa non più del 10%, né in più né in meno. Ora io sono in confusione totale perché comunque un abbassamento dei tassi in teoria dovrebbe ridurmi la rata, questo da maggio naturalmente del 2009. Però la banca mi conferma che non sono nemmeno a regime, quindi il rischio è che a maggio la rata aumenti ulteriormente per poi trarre beneficio della riduzione dei tassi da maggio del 2010. Guardi non Ettore, già non abbiamo capito che diavoleria di contratto ha sottoscritto lei, per carità, con tutto il rispetto, capire che cosa le ha fatto sottoscrivere la banca. Cosa vuol dire che la sua rata cambierà nel maggio del 2009, mi scusi? Cioè la sua rata viene aggiornata secondo i tassi una volta all'anno? Una volta all'anno, esattamente. In base a cosa? In base a cosa? Cioè che... è agganciata anche lei all'Euribor e ai tassi di mercato, diciamo. Viene varia a seconda della variazione dei tassi, però non più e non meno del 10%. Cioè, quindi non è ancora a regime perché probabilmente la banca farà la media di quest'anno e quindi a maggio deciderà che cosa succede. Questa formula io non l'avevo mai sentita, non so voi due, ecco, diciamo Ettore, che è un variabile con cap, sia in aumento che in diminuzione, è un po' particolare. La rata costante, esatto. La rata protetta. Ettore, mi scusi una cosa, no, ci dica il nome della banca, la prego. È UCB. Quindi sono i francesi. Probabilmente è un metodo molto più diffuso all'estero che qui in Italia, quindi risulta un po' non strano. Si spaventi Ettore, esatto. Non c'era mai capitato, ci mancherebbe altro, muto come tanti altri, non era probabilmente per una serie di circostanze non era mai capitato di commentarlo a Salva Danaio. Quindi lei adesso è in difficoltà, Ettore, che cosa vorrebbe fare? Ma allora, essenzialmente io, tutto sommato mi ha protetto leggermente rispetto alle condizioni di mercato, perché ho sentito amici con aumenti di rata da 250 a 300 euro a rata, cose di questo genere. Io dal 2006 a oggi l'incremento è stato di 150 euro alla fine del mutuo. Però la questione qual è? Che comunque ora sono in confusione perché attendo con ansia la riduzione dei tassi, ma è una cosa di cui io non in teoria non beneficerò. Ma non è vero, perché in parte sì, certo. In parte sì, fino al 10%, diciamo così. Beh, intanto bisogna vedere fino a fine dicembre che cosa succede. Forse a fine dicembre, entro fine dicembre, ci sarà anche un'altra riduzione del costo del denaro. Forse Trichet la fa. Per cui se la sua banca poi le calcola la nuova rata, quella da maggio in avanti, in base a quello che è successo nel 2009, lei un beneficio, Ettore, lo dovrebbe avere. In teoria no, vi chiedo scusa se interrompo, perché quello che mi diceva la banca è che non sono ancora a regime, nel senso che comunque la rata che oggi sto pagando non è ancora arrivata ai volumi dei tassi di interesse che erano fino all'ultima riduzione che è stata fatta. Quindi in teoria quello che mi sembra di aver capito è che nonostante una riduzione anche importante, l'ultima che c'è stata a ottobre... Sì, oggi ne arriva un'altra e un'altra ne arriverà a dicembre. Però il problema è che di queste riduzioni lei beneficerà nel 2009, perché la banca calcola il tasso in base alla media di quello che succede nel quest'anno, 2008. Roberto, quindi non è ancora a regime per questo motivo, penso. Roberto, scusatemi. No, ci mancherebbe Ettore. Allora, è complicato anche per me, esatto, difficile da spiegare. Ecco. Mi dicono che non è a regime perché, ipotesi, è partito, non lo so, è partito da 10, i tassi sono andati al 20, adesso sto dicendo... Sì, sì, un esempio, per esemplificare, sì. Sono andati al 20, io ora sto pagando per 15. Sì, esatto Ettore, il meccanismo da che mi sembra di aver capito è il seguente. Lei ha la garanzia che la sua rata di anno in anno non salirà più di quella famosa percentuale del 10%. Ma ovviamente la banca tiene conto comunque della variazione complessiva teorica che i tassi avrebbero sostenuto e quindi le spalma, diciamo così, in un tempo più lungo l'incremento della rata. Questo cosa vuol dire? Adesso poi bisognerebbe entrare più nel dettaglio del meccanismo effettivo, perché vorrebbe dire che non avendo ovviamente scontato con l'aumento di rata attuale tutto l'aumento dei tassi, Ettore negli anni successivi potrebbe avere ancora la rata che andrà su, anche se in maniera più graduale, quindi riesce a essere più preparato a sapere prima con l'aiuto della banca. Diciamo che c'è un adeguamento con ritardo. E quindi automaticamente anche i cali di tassi che noi vediamo adesso potrebbero essere per lui spostati nel tempo anche di parecchio. Qui la difficoltà è, si può fare solo vedendo esattamente nel contratto come funziona il prodotto, capire di quanto possa essere spostato nel tempo questo aumento o riduzione della rata stessa. Quindi, insomma, Ettore, per concludere il suo discorso, abbiamo interpretato un po' meglio adesso il suo caso? Sì, sì, esattamente. Oltretutto sono associato al Proconsumo, vorrei anche provare a sentire loro direttamente. Bene, con piacere, quando vuole. Anna Vizzari non vede l'ora di mettere le mani sul suo mutuo. Comunque, Ettore, detto questo, se magari lei è riuscito... Il problema suo qual è, Ettore, adesso? Che non riesce più a star dietro alla sua rata? No, o non è... Sì, diciamo che allora attualmente ce la possiamo ancora fare, il problema è prevedere che probabilmente pagando ora 900 euro, l'ipotesi è che con maggio arriverà a 990 euro, nell'ipotesi di un aumento del 10%. Quindi inizia a essere difficoltosa la cosa. Non è tutto legato alla difficoltà, è il fatto che c'è il termine per me del primo dicembre dell'adesione della legge Tremonti in accordo con l'ABI. Però penso che questo le possono dire da subito che le conviene lasciar perdere. Esatto. E poi comunque questo tipologia di mutuo penso che non rientri esattamente nella rinegoziazione. Ettore, tanto ormai abbiamo dedicato tutta la prima parte della trasmissione a lei, ma sono sicura che rappresenterà molto bene la situazione in cui si trovano molte altre famiglie. Ettore, le è arrivata la lettera della sua banca nella quale le presentano anche la convenzione ABI Ministero dell'Economia? Mi è arrivata. Okay, quindi allora hanno perfetto, aderito, quindi hanno il suo aderito. Mutuo poi eventualmente. Facciamo una cosa, si faccia una chiacchierata con Anna Vizzari in privato, così noi abbiamo sempre suggerimenti, non ne diamo espliciti, abbiamo sempre cercato di far capire che questa è un'adesione che ovviamente va bene, è calzata su misura per chi magari è già in ritardo con i pagamenti, per chi vuole sanare una situazione, per chi ancora ce la fa. Ettore, poi guardi, se lei ha già un mutuo piuttosto lungo, non abbiamo magari specificato anche questa questione, rischia di vederselo allungare ulteriormente, per cui c'è ulteriore incertezza. Ettore, quanto dura il suo mutuo? Siamo ai limiti 30 anni. Ecco, quindi... Però guardi, le do la mia teoria, magari sposarsi alla convenzione governo ABI, tenerla per abbattere momentaneamente la rata, tenerla per quello che possono essere un anno, due anni, tre anni e poi da lì rivalutare, perché io le dico, ho fatto alcune valutazioni con altre banche, ma attualmente per la durata che ho io purtroppo non ho grandi convenienze, certo. La questione è che però, ecco, la convenzione ABI Tremonti, ABI Ministero dell'Economia, permette alla rata di ritornare sui livelli del 2006. Se i tassi si sistemano, ci stiamo ritornando fisiologicamente, Ettore, per cui aderire alla convenzione, però insomma si faccia due calcoli, ma prima di fare qualsiasi cosa faccia una telefonata ad Altro Consumo, magari le fanno una consulenza un po' più appropriata, le fanno capire anche quei termini che magari con la chiacchierata in banca non sono chiari. 800 24 0024 per le domande degli ascoltatori. Calogero, ci aspetti ancora un attimo, perché io invece volevo commentare con i miei ospiti questa iniziativa che abbiamo appreso questa mattina. Non sono riuscita a documentarmi meglio perché ci è piombata proprio un'ora prima della trasmissione, dell'inizio della trasmissione, una banca italiana, la Popolare di Milano, possiamo anche dire perché tanto domani poi sarà sui giornali, ha lanciato i mutui agganciati non più al tasso Euribor ma a quello di riferimento della Banca Centrale Europea. Vi sembra un'iniziativa interessante, Roberto, Anedda? Sì, potenzialmente sì. Hanno subito colto il monito del governatore. Esatto. Sentivamo quello che diceva anche Draghi prima. Ricordiamoci una cosa, Draghi stesso ha detto che le banche dovrebbero collegare maggiormente il tasso dei mutui al costo della raccolta. Fino adesso le banche hanno sempre detto comunque che l'Euribor rappresentava il costo della raccolta. Quindi bisogna anche intendersi quale sia il costo della raccolta per le banche. Siccome da una banca all'altra potrebbe anche cambiare questo costo di raccolta, ma non è detto che le banche vogliano pubblicizzare qual è esattamente il loro costo di raccolta, cioè onestamente dalle massime istituzioni ci si aspetta che al di là del suggerimento ci sia anche una proposta pratica di come questa cosa si possa fare, perché chi meglio delle istituzioni può dire come le banche possono essere tutelate da questo punto di vista. Non dimentichiamoci che se in una situazione del genere la banca avesse come costo di provvista l'Euribor e poi invece dovesse dare i mutui al tasso BCE, praticamente farebbe mutui in perdita, e questo ovviamente distoglierebbe. Ci sembra abbastanza strano che la banca possa orientarsi verso questa strada, e quindi bisogna vedere se magari con questa iniziativa ci sono degli spread più elevati o se ci sono dei limiti. Insomma, abbiamo alzato il livello su possibili interrogativi intorno a questa offerta. Poi ovviamente gli interlocutori di BPM non ci sono, non possiamo neanche commentarla più di tanto. Comunque pare che questa offerta si chiami Euromutuo. rimettetevi le cuffie qua, come al solito quando parliamo di mutui anche a microfoni spenti la discussione è molto animata, è naturale, stiamo cercando di individuare magari anche le domande da parte degli ascoltatori che possano essere rappresentative di più casi, ma è difficilissimo, è impossibile, perché tra l'altro quando si sottoscrive un mutuo, forse questo è un messaggio che molto spesso con grande difficoltà facciamo passare, il mutuo non si deve fare solamente in relazione ai tassi di mercato e a come andranno le cose in economia e in finanza, il mutuo bisogna farselo a seconda delle proprie esigenze. Anna Vizzari, tra l'altro poi torniamo sulle mutuo di BPM che è agganciato non più all'Euribor ma al tasso di riferimento della BCE, ma come mai non si riesce a farlo capire? Perché poi adesso sono tutti ossessionati dal fatto che magari hanno fatto la surroga, hanno cercato il mutuo migliore, hanno preso il tasso fisso per eliminare la tensione e cercare la sicurezza, adesso ovviamente tutti pensano passo di nuovo al variabile, ecco. No, diciamo subito che fisso e variabile sono molto diversi anche soggettivamente, nel senso che chi sceglie un tasso fisso si assicura una certezza della rata per sempre fino all'estinzione del mutuo e di conseguenza vale anche la pena magari pagare un po' di più per avere questa forma di assicurazione. È vero anche che il tasso variabile probabilmente nei prossimi anni, ma non possiamo parlarne, non avere la certezza fino ai 25-30 anni che è la durata media di un mutuo, diciamo che potrebbe scendere, quindi sicuramente potrebbe dare dei vantaggi sulla rata, però attenzione perché potrebbe anche aumentare, per cui noi diciamo sempre a chi sceglie il tasso variabile di sceglierlo se è in grado di poter sopportare anche aumenti della rata mensile fino al 30%. Quindi diciamo il tasso variabile è teoricamente indicato da chi parte da una rata molto bassa e può molto bassa, ragionevolmente bassa, insomma, esatto, ecco, chi già è al limite con il variabile è chiaro che anche un piccolo spostamento del tasso ti modifica e non poco anche la tesoreria familiare ed è quello mensile. Che è successo purtroppo negli ultimi anni, nel senso che molte persone si sono indebitate a rate che probabilmente non sono più sostenibili adesso. 800240024, dobbiamo anche fare un commento anche su quello che potrebbe cambiare con la riduzione dei tassi di oggi, insomma l'Euribor non si adeguerà altrettanto rapidamente al tasso della BCE che oggi probabilmente verrà portato al 3,25%, l'Euribor è ancora quello a tre mesi, precisiamolo, al 4,59, ancora ben lontano da un rapporto fisiologico con tasso di riferimento, però speriamo che si sposti rapidamente verso questo livello. Calogero da Milano, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Volevo capire esattamente come funzionava il discorso dell'Euribor a tre mesi, come si calcola, penso che venga calcolato con una media, no? Visto che con la Federazione delle Banche Europee, Calogero, sì, c'è un fixing ogni giorno, sì. Esatto, quindi e io quando devo andare in banca per cercare di capire quale poi sarà il tasso definitivo che mi applicheranno alla sua rata, alla mia rata, certo, no? In che momento, all'inizio, alla fine, a metà, quando funziona? Sì. Loro mi mandano, ad esempio, mi hanno appena mandato la lettera dove, del 9 ottobre, dove si dice che il 19 novembre, visto l'aumento del costo del denaro, i tassi di interesse e debiti verranno aumentati di 0,50 punto percentuale. Ma allora fanno riferimento a... Allora, facciamo un po' di ordine, Calogero. Lei ha un mutuo a tasso variabile? È la sua rata che aumenta? La banca le ha mandato un avviso di questo tipo? Sì, io ho, per la verità non è un vero e proprio mutuo, nel senso che ho una sorta di, una disponibilità. Ma è un fido, Claudio, non è un mutuo sulla casa. Non è un mutuo sulla casa. Ma stiamo parlando di mutui, Calogero, stamattina, non ci faccia spaventare, perché qua abbiamo capito che le banche si sono attrezzate in questi anni con un'offerta sempre più sofisticata. Adesso questa... In ogni caso, insomma, lei anche la disponibilità del fido ce l'ha agganciata come all'Euribor. Però Calogero, noi stamattina vorremmo parlare di mutui. Roberto, Anette, sì, parliamo con Roberto per un attimo. Intanto, perché ha il mutuo a tasso variabile? L'Euribor varia ogni giorno, ma non è che ogni giorno varia la nostra rata, visto che noi la paghiamo una volta al mese. Quando si aggancia la rata all'Euribor? Ogni banca ha la sua data o la sua modalità di calcolo dell'Euribor, per cui certe banche prendono il valore dell'Euribor un mese, tre mesi, attenzione, poi c'è anche l'Euribor a 360 o 365, tanto per rendere più divertente la cosa. La situazione. E ovviamente è tutto scritto nel contratto, quindi la banca non è che si inventa di mese in mese che tasso le conviene applicare, viene stabilito precedentemente, in genere è il classico dettaglio di contratto che le persone magari non stanno a leggere o non si ricordano, ma comunque nel contratto di mutuo è specificato a quale data o quale media di date del periodo precedente e con quale metodo viene calcolato l'Euribor, che viene poi applicato per la singola rata mensile. Molte banche usano addirittura l'Euribor del giorno della scadenza della rata, che ovviamente è sempre lo stesso giorno del mese. Molte prendono un giorno determinato del mese precedente o della fine del mese precedente. Nel contratto c'è sempre scritto, nella stipula del quindi punto. In realtà non è neanche semplice, a meno che non si abbia presente il meccanismo, perché altrimenti uno può vedere l'Euribor di oggi, ma nella realtà la rata che pagherà a breve potrebbe essere ancora agganciata all'Euribor di un mese fa. Esatto. E quindi a volte avere il dubbio che la banca non mi stia applicando la riduzione dei tassi. In realtà in molti casi questa riduzione avviene con un minimo di ritardo, anche se poi comunque se ne beneficia completamente proprio per questo calcolo che è determinato sulla base di una data fissa. Anna Vizzari, visto che però con lei spesso e volentieri a questi microfoni parliamo anche di conti correnti, di prestiti, per rispondere ovviamente poi al nostro ascoltatore che abbiamo abbandonato, lui ha una situazione diversa, non ha un mutuo ma ha un fido agganciato all'Euribor. Però mi pare di aver capito che la banca gli abbia fatto una comunicazione per comunicargli un aumento dello 0,50 dovuto a situazioni ad aumento del costo della raccolta sul mercato. Quindi l'utilizzo attingere a questo fido costerà un po' di più. Io penso che sia una comunicazione di trasparenza fatta in base all'articolo 118 del testo unico, quindi sostanzialmente Calogero ha la possibilità entro 60 giorni dalla ricezione di questa comunicazione di estinguere il fido alle vecchie condizioni senza spese e ovviamente dovrà cercare qualcun altro che gli faccia questo. Però insomma quantomeno ad aiutarlo adesso a capire che tipo che di comunicazione gli è arrivata. Certo. Ecco, ma anche per quello che riguarda la disponibilità del fido, anche in questo caso la remunerazione su questo eventuale utilizzo dello scoperto di conto probabilmente è agganciato all'Euribor, ma io ho visto anche degli scoperti di conto corrente che sono agganciati a tassi variabili di mercato, per cui succede comunque abbastanza facilmente questa situazione. Giuseppe da Padova, benvenuto. Sì, buongiorno a lei e ai suoi ospiti e grazie per l'ospitalità. Grazie a lei. Io chiamavo perché ho un problema di questo tipo. In breve sto cercando di fare una surroga con un'altra banca per il mio mutuo. Sì. Dalla banca con la quale ho attualmente il mutuo non riesco ad ottenere i documenti, semplicemente il piano di ammortamento. Il conteggio istintivo mi suggerisce Anna Vizzari, sì. Ecco, il motivo qual è? Che sto parlando di una grande banca, una delle più grandi, che ha acquisito altre banche e sul territorio mi ritrovo che il mio interlocutore ha cambiato nome pur facendo parte dello stesso gruppo e non ha più accesso, ma parlo dell'accesso informatico ai dati del mio mutuo. Senta un po' Giuseppe, ma è un gran problema per lei farci il numero e il nome di questa banca, perché siccome penso di no, guardi, era Banca Intesa inizialmente, ecco. Adesso è qualcos'altro, insomma, però vabbè, credo che cambi poco, insomma, ecco. Quindi io sto cercando, sono andato ripetutamente a parlare in banca. È rimasta Banca Intesa, non mi faccio capire, ma lei prima magari sono era cliente sono ancora lì. Però loro adesso voglio dire, a parte hanno anche una procedura. Giuseppe, ci sembra un po' strano perché la policy della banca in questo momento non è proprio quella di ostacolare le procedure di surroga, forse è solamente un'impuntatura del direttore della sua filiale. Comunque Giuseppe, lo stato dell'arte è che lei non riesce ad avere il conteggio istintivo. Ha avuto la disponibilità ad accettare il suo mutuo da parte di un'altra banca? Sì, però avrei voluto fare una verifica, ovviamente, tra l'una e l'altra, con i dati alla mano, cosa che non riesco a fare, perché non avendo i dati vorrei sapere esattamente qual è la rata a cui sono arrivato, qual è il residuo che devo pagare, posso dire che queste informazioni di solito si trovano sulle lettere contabili che la banca manda al pagamento della rata, cioè lui dovrebbe sapere qual è la sua ultima rata pagata. Lei che cosa vorrebbe sapere di più, Giuseppe? Il piano di ammortamento, tutto il piano, confrontarlo con quello del... Diciamo che originario ce lo dovrebbe anche avere. No, guardi, non ce l'ho io, non ce l'ha neanche ma questo è molto grave, allora questa è un'altra cosa, qui ci vorrebbe anche una bella segnalazione all'antitrust a questo punto, perché comunque, Roberto Anedda, perché stamattina stiamo sentendo veramente dei casi, o le mie collaboratrici li hanno scientificamente scelti, ma... come se fossimo tornati indietro di 2 anni qualche volta, mi sembra, come se non sia cambiato niente. Se non infatti. Di più. Roberta, il problema è che effettivamente in tanti, quando sottoscrivono un mutuo, giustamente si preoccupano del fatto che il mutuo gli venga concesso, ma abbiamo visto anche interlocutori precedenti non fanno magari una pianificazione di lungo periodo sulle proprie uscite, entrate o sulle possibili dinamiche dei tassi, o non sono invece, come nel caso ad esempio di Giuseppe, consapevoli magari degli elementi fondamentali che devono essere presenti obbligatoriamente nel contratto e che poi in determinati casi come questo li possono mettere in difficoltà per ottenere semplici informazioni sullo stato del proprio pagamento. Quindi sicuramente c'è un comportamento manchevole da parte della banca che non può dare un contratto senza tutta una serie di l'elemento basilare fondamentali, del rapporto. Se poi addirittura c'è un atteggiamento di non abbiamo più i dati, non abbiamo più accesso, mi sembra veramente una roba ai limiti del ridicolo che infatti potrebbe essere quasi perseguito penalmente. Infatti, quindi Giuseppe, guardi, non molli questa situazione, anzi ci scriva, ci faccia la cortesia, ci dia qualche indicazione in più, perché ci piacerebbe molto avere qualche... Ci faccia spalleggiare d'altro consumo. Esatto. Con piacere. Sì, guarda, oggi veramente. Comunque, no, ma è incredibile, anche perché, parliamoci chiaro, una stampata di computer che non ci sia più nella database di questa banca. No, anche perché tutta sono sicuro che cliente, se Giuseppe si fosse presentato in filiale dicendo sapete, non vi posso più pagare il mutuo, sicuramente, magicamente, immediatamente l'impiegato avrebbe stampato fior di resoconti di quanto Giuseppe doveva alla banca. Quindi. Alberto da Milano, siamo da lei, buongiorno. Buongiorno, grazie, complimenti della trasmissione e della vostra ospitalità. Grazie. Senta, noi, io e mia moglie, stiamo per stipulare un contratto già con la banca, è già stato accettato e tutto, quindi dobbiamo solo firmarlo. Tasso fisso 15 anni. Sì. Con un tasso di partenza 4,55 e uno spread dell'1,20. Siccome mia moglie ha chiesto, appunto sentendo queste informazioni sull'abbassamento dei tassi, gli hanno risposto che no, i tassi verranno elevati, verranno abbassati, ma solo sui tassi variabili, cioè non su mutuo a tasso fisso. Volevo sapere se era vero e se a questo punto possiamo battagliare su qualcosa. Guardi, lei, secondo me lei può battagliare a prescindere, perché tanto chiedere un'offerta migliorativa non fa mai male, comunque, alla luce del fatto che in ogni caso i tassi si stanno rimuovendo verso il basso. Roberto Anedda, però insomma la scusa trovata dalla banca per non offrire una condizione ancora migliorativa è sempre un po', vabbè, discutibile. Beh, detto questo, io vorrei dire una cosa: se il 4,55 esatto, è il tasso finito con uno spread dell'1,20, stiamo parlando di un costo del denaro del 3,35 che è sotto il costo del denaro. Esatto, infatti è lì che volevo arrivare. Adesso, a parte tutto, a quindi meno che mi sembra già 4,55 non sia invece no, è l'IRS 15 anni, sì, sì, che infatti quotava ieri 4,55 più 1,20 di spread. Di spread. Quindi stiamo parlando di un tasso del 5. È un'offerta che ci piace? È allineata a quelle tra le migliori del mercato, ma per il fatto che comunque il costo del denaro a lungo termine è quello che si usa come riferimento per i tassi fissi. Quindi insomma, Alberto, lo al spread è un pochino, secondo me sullo spread si potrebbe un po' potrebbe giocare, però qualcosa. Gli spread si stanno alzando. Sì, però ci sono operatori che ancora presentano l'1%, lo 0,90. Quindi insomma, essendo poi un mutuo di durata breve, secondo me può puntare ad avere un miglioramento ulteriore. È come al solito confrontare diverse banche, metterle un po' in competizione. Quindi diciamo, è un'offerta in linea con il mercato, non gli hanno offerto niente di particolarmente oneroso rispetto a quello che è possibile trovare sul mercato, però insomma una piccola battaglietta. Alberto, se proprio il Rogito non lo deve fare domani mattina e se non deve sottoscrivere altrimenti il contratto... Altrimenti potrebbe sperare che grazie al continuo abbassamento dei tassi, anche i tassi fissi, cioè gli IRS, possano scendere ulteriormente, quindi anche il suo tasso fisso possa beneficiarne, però in questo caso dovrebbe passivamente tenere le condizioni della banca. Ecco, mi interessa molto invece l'aspetto che ci vuole introdurre Immacolata dalla provincia di Torino. Buongiorno. Immacolata, che bel nome che ha, buongiorno. Salve. Senta, noi ci eravamo sentite parecchio mesi fa, ero già intervenuta perché avevo portato il mio caso. Io ero riuscita a rinegoziare con la mia stessa banca un mutuo iniziato a tasso variabile per 30 anni nel 2006. Mi ero fatta in giro un po' di preventivi, loro subito mi avevano detto no, non si può fare, poi quando gli ho messo sotto il naso le condizioni migliori, effettivamente sono stati più bravi, tra virgolette, sono riuscita ad ottenere un fisso bloccando quello che era a settembre, quindi un mese fa, due mesi fa, l'Eurirs, con uno spread dell'1%, quindi un 6 finito, tanto finito, e tutto ok. Adesso però mi chiedevo, siccome le condizioni stanno migliorando, per il momento solo per il variabile, però appunto se poi questo variabile scende molto, penso che un briciolino anche il fisso. si può rinegoziare o surrogare o che altro guardi già modificata una volta. Immacolata, la ringrazio. Nel migliore dei mondi possibili si può fare tutto. Le leggi ci sono, la portabilità del mutuo è ormai diventata la parola d'ordine quando parliamo di finanziamenti per l'acquisto della casa. Insomma, è la nostra grande battaglia, anche nostra, perché lo devo dire, perché da questi microfoni ne abbiamo fatta tanta. Allora, intanto, così, come dire, Immacolata è un altro caso molto significativo di quello che è successo di recente, l'abbiamo detto anche prima, ovviamente per chi aveva una rata in via di esplosione c'è chi ha tentato di bloccarla, quindi passando ovviamente dal variabile al fisso, adesso vorrebbe teoricamente passare indietro, però si può fare insomma. Sì, perché passare indietro vorrebbe poter godere di un fisso ancora più vantaggioso. Allora va detto che, siccome i tassi fissi si chiamano fissi, se troppe persone cominciano ogni tre mesi, ogni volta che cadono i tassi, a voler rinegoziare anche i fissi, cioè che le banche veramente fanno a tutti uno spread del 3% e non se ne esce più. Quindi inevitabilmente a un certo punto, se un tasso diventa fisso, bisogna anche essere soddisfatti del risparmio che si può ottenere e quindi magari difficilmente, ad esempio in questo caso, la banca potrebbe concedere un'ulteriore rinegoziazione. No, lei ha detto una cosa intelligente, perché noi quando parliamo di portabilità parliamo sempre del mutuo a tasso variabile, perché è quello che ha fatto soffrire di più, ma sul fisso ovviamente non ci sono mai interrogati. Fatti tra il 2000 e il 2001 che, a meno che non siano stati nel frattempo cambiati, pagano tassi dal 7 all'8%, quindi sicuramente molto più elevati di quelli attuali e che potrebbero ben essere surrogati con forti risparmi. Nel caso di Immacolata sicuramente potrebbe vedrei più percorribile l'eventuale possibilità di una surroga, quindi approfittare di un buon fisso più basso di quel del 6 che sta pagando adesso, anche se, ripeto, al momento la differenza di tasso è veramente poca, cioè i migliori fissi sono comunque sopra il 5%, potrebbe valer la pena, visto che comunque è un tasso fisso, nel frattempo aspettare, vedere se questo prosieguo del ribasso dei tassi porta in basso anche i tassi di lungo termine, e qualora i migliori tassi fissi sul mercato dovessero scendere ulteriormente, quindi portare una certa differenza più significativa rispetto al 6 attuale, valutare una surroga. Poi, se ha coraggio, può anche ripresentarsi in filiale a chiedere un'ulteriore rinegoziazione. Ormai sono abituati, ma Immacolata, insomma, è stata accolta anche così con tanto piacere, è stata accontentata anche abbastanza rapidamente, però visto che è molto brava anche la pazienza di guardarsi intorno, scegliere anche così, fare dei confronti sul mercato, Immacolata, perché si rimette all'opera se questo lavoro la appassiona e magari può anche spuntarla. Giuseppe da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. E io avevo un caso da sottoporre. Una ventina di giorni fa sono stato, ho chiamato Mutui Online per avere una situazione, per richiedere un mutuo. Benissimo. E per chiedere appunto qual era il mutuo migliore sul mercato al momento. Mi è stato dato il nominativo di una banca che ho contattato, mi hanno confermato, come diceva Mutui Online, tutti quelli che erano i parametri. Esatto, cioè non è che Mutui Online le ha dato il nome di una banca, ha cercato, a seconda delle sue necessità, delle sue esigenze, di individuare l'offerta migliore per il suo caso, Giuseppe, sì? Esatto, individuato l'offerta migliore con uno spread che mi avevano proposto allo 0,90%. Buono. E, sì, buono, è quello che ho detto anch'io. E, dopodiché, dopo passati 4-5 giorni, la BCE ha abbassato i tassi, il tasso di sconto. Sì. E mi hanno chiamato dalla banca dicendomi che non potevano più farmi lo 0,90, ma avevano aggiornato tutti gli spread e adesso erano all'1,40. Ah, però, mi chiedevo, la domanda guardi, è no, adesso ci deve dire il nome della banca, perché sono sicura che Roberto Anedda arriva in ufficio, tira sul telefono e li chiama immediatamente. Io ho chiamato Mutui Online, ti ho detto, ma com'è possibile? No, guardi, è vero, mi hanno detto quelli di Mutui Online, ci è appena arrivata la comunicazione che stanno rialzando gli spread. Sì, quello è vero, no, capire se questo è vero, Giuseppe, è vero, capire se questo balzo è corretto, dal 0,90 all'1,40, la mettiamo in difficoltà, Anedda? No, assolutamente, ci mancherebbe. Anzi, andrò a verificare con gli utenti e serve apposta a quello. No, qui il problema è che diverse banche ultimamente hanno aumentato gli spread. Questa è una banca che sicuramente Qui è mezzo punto. Nel senso che ogni banca dal punto di vista commerciale può decidere di fare quello che vuole, poi magari si mette fuori mercato, nel senso che non prende più un cliente. In questo caso specifico, quello che andrà inevitabilmente verificato in modo da poter aiutare Giuseppe è quali comunicazioni avesse dato la banca in merito alla validità del precedente spread, quindi lo 0,90, perché se io fino a una certa data do una segnalazione di un determinato spread senza specificare che quello vale solo per le offerte sottoscritte fino a una sottoscritte o comunque portate avanti fino a una determinata data e poi improvvisamente li cambio, allora potrei addirittura utilizzarla come strategia commerciale, tengo prima i tassi bassi e poi li cambio come voglio. Quindi sicuramente qua e poi i nostri consulenti saranno d'aiuto in questo a Giuseppe, verificheranno come gestire, perché inevitabilmente questa cosa potenzialmente si verifica ogni volta che qualcuna delle nostre banche, dato che noi lavoriamo con 40 banche, modifica delle condizioni, però tutte le banche prevedono un periodo di applicazione, Giuseppe, dell'uno o dell'altro. Visto che, se in questo caso c'è stata qualche manchevolezza da parte della banca, noi come sempre siamo a fianco del cliente. Certo, quindi, certamente. Quindi Giuseppe, verificheremo. Ci segnali un po' più dettaglio della situazione e poi probabilmente non avrete segnalato solo una banca, ci sarà anche una seconda nella graduatoria, magari si può andare alla seconda. Se una banca autonomamente per un motivo o per l'altro decide di non voler essere più particolarmente competitiva sui mutui, si pone fuori mercato, al di là del disagio suoi, comunque creato a Giuseppe, e quindi comunque si trova poi un'altra offerta, però poi... Io lo so che noi continueremo molto volentieri a parlare di questo argomento, non ce la facciamo più neanche questa mattina, il tempo a nostra disposizione è scaduto. Grazie molto ad Anna Vizzeri e Roberto Nedda per essere stati con noi. Noi adesso andiamo verso il GR Extra Large, che in diretta seguirà anche la decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse. Appuntamento alle 13.45, noi ci risentiamo tra poco in GR Extra Large con la borsa. La Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Salva Danaio.